A bordo campo di Dario Ricci. Ascoltatori affezionati di A Bordo Campo riconosceranno queste note, un po' perché sono impossibili da non riconoscere, ed è Elvis Presley, il mito e uno dei simboli dell'America, un po' perché le note di Elvis e la storia che queste note ci introducono sono state già ospiti di A Bordo Campo, con la promessa di sapere come sarebbe andata a finire. E mi riferisco al 5 dicembre scorso, quando a bordo campo si collegò con gli Stati Uniti, esattamente con West Palm Beach, perché c'era una maratona che stava per partire, la maratona appunto di questa cittadina in Florida, e c'era un partecipante davvero particolare ai nastri di partenza. Questo partecipante ritorna oggi da noi, questo particolarissimo maratoneta. Bentornato a bordo campo, Francesco Canali. Grazie e buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, perché particolare questa maratona? Perché Francesco Canali, 42 anni, tecnico di laboratorio, ma anche giornalista, soprattutto grande appassionato di sport, questa maratona l'ha fatta, la prima maratona della sua vita, da appassionato podista, ma in modo del tutto particolare. Malgrado, e mi viene da dire anche Francesco, grazie alla SLA, questa terribile malattia, la sclerosi laterale amiotrofica, che malattia durissima con cui convivere, che però non ha spento il tuo sogno di partecipare a una maratona. E allora, con una carrozzina speciale, con quattro amici che hanno spinto in staffetta questa carrozzina, la maratona si è fatta, e come, vero Francesco? Direi che si è fatta molto bene, e sono contento di aver avuto, oltre a questi quattro amici, anche questa carrozzina, che poi si è rivelato un bolide, perché è stata veramente, oltre che comoda per me, anche molto maneggevole per i miei spingitori. E tanto che abbiamo chiuso in 4 ore 42, che è un tempo direi molto buono per una maratona, per quattro persone che spingono soprattutto una persona. Eh sì, direi tempo buonissimo, comparabile a quello di un discreto dilettante, e soprattutto anche perché l'esperienza che avete fatto in cinque è del tutto innovativa, così come il mezzo che avete usato, questa carrozzina che, su cui adesso ritorniamo, perché ha una genesi del tutto particolare. Allora, andiamo subito a sentire però, Francesco, me lo consentirai, chi buona parte anche di questa fatica l'ha condivisa con te, che è Claudio Rinaldi, collega della Gazzetta di Parma, amico, grande amico di Francesco Canali, e che è stato uno dei quattro staffettisti spingitori. Allora Claudio, maratona particolarissima questa di West Palm Beach, come ti sei trovato nel ruolo di motore dell'impresa di Francesco Canali? Intanto buongiorno anche da parte mia a te e a tutti gli ascoltatori. Mi sono trovato molto bene, addirittura direi meglio di quanto pensassimo prima, e ha proprio ragione Francesco, la carrozzina si è rivelata straordinaria, perché molto maneggevole. Dirò addirittura che i tratti in cui si spingeva non erano così più difficoltosi, più faticosi di quelli in cui non si spingeva, perché si è parlato di staffetta, però tutti e quattro noi spingitori, diciamo, abbiamo fatto tutti 42 chilometri, perché l'intenzione era naturalmente partire e arrivare tutti insieme. Ci siamo dati il cambio ogni miglio, e però davvero era talmente maneggevole e scorrevole, oltre che comodo per Francesco che ci stava in cima, che ne è stato direi meno faticoso del previsto, anche se poi naturalmente sono i 42 chilometri, si sentono tutti. Eh sì, sicuramente. Tra l'altro questa carrozzina, come dicevamo a inizio chiacchierata con Francesco, ha una genesi del tutto particolare e si candida ora ad essere anche un po' un prototipo nel suo genere, vero Claudio? Raccontaci un po' come nasce questo mezzo. Ma guarda, nasce da un'idea di Paolo Barilla, che da quando ha saputo dell'impresa di Francesco è diventato, credo, il nostro primo tifoso in assoluto. E dopo un'esperienza pessima con una carrozzina che ci eravamo fatti fare, che si era rivelata assolutamente inadeguata, Paolo Barilla ha avuto questa intuizione, dice dobbiamo fare in modo che Francesco sia comodo, quindi è partito dall'idea di usare un sedile da rally, lui che insomma è stato pilota ad ottimi livelli, quindi se ne intende, un sedile da rally, quindi avvolgente, fasciante e molto comodo, e l'idea era di costruirci intorno una carrozzina. L'idea di Paolo Barilla è stata questa, e soprattutto un'altra geniale, cioè rivolgersi a Alex Zanardi, un altro che se ne intende naturalmente per ovvi motivi e perché oltre che un grandissimo campione di handbike adesso è anche un maniaco addirittura della tecnologia, si costruisce da solo tutti i mezzi con i quali poi fa dei tempi eccezionali. Alex a sua volta è venuto a conoscerci, è rimasto impressionato dalla forza, dal coraggio di Francesco e si è dedicato a noi anima e cuore, come si dice, per cui pur in un periodo per lui impegnativo, andava alle 7 del mattino in officina, insomma per farla breve ha fatto lui la carrozzina dalla A alla Z, pur avendo poi una grande squadra di amici che chi per piccoli particolari tipo le imbottiture o altri per mettere a posto gli ultimi dettagli si è tutta prestata per inciso gratuitamente per noi, realizzando questa cosa che è veramente straordinaria. Eh sì, è straordinario, anzi forse è dir poco. Francesco, c'è magari anche l'intenzione in qualche modo di brevettarlo, questo prototipo, perché potrebbe essere davvero molto utile per situazioni del genere, per magari malati di SLA che come te vogliono testimoniare la loro voglia di fare sport? Ma guarda, il brevetto non sta a me a dirlo, ti devo dire però che questa carrozzina è stata studiata appositamente per me, che ho questa malattia, ma sono fortunato di essere un malato di SLA in queste condizioni, perché molti altri con la mia stessa patologia non possono permettersi di correre una maratona. Io del resto sono qua ancora oggi con voi a parlarne, mentre molti altri non parlano, hanno problemi di respirazione, quindi direi che questo prototipo va bene per me ma non per tutti. Certo, è molto difficile poi arrivare a una forma generalizzata, no? Vista anche la peculiarità della malattia. Dicevamo West Palm Beach, avevamo già raccontato come mai questo gruppo di eroi, permettetemi di usare questo termine, perché la testimonianza che ci lasciano, che ci stanno dando è veramente, veramente preziosa. Come mai eravate arrivati a West Palm Beach, no? Inizialmente il sogno era quello di partecipare a New York, cavilli burocratici, uno scambio infinito di mail, prima un assenso dato dall'organizzazione, poi ritirato in modo piuttosto, lo dico io per non mettervi in difficoltà, pretestuoso, ha fatto tramontare questo sogno, ma come ancora sottolineavamo in questa storia il destino tanto ruba ma qualcosa anche dà, e allora si corre a West Palm Beach, ma poi qualche giorno dopo, Francesco, c'è stato un appuntamento importante sempre in Florida, però questa volta ad Orlando, e guarda caso proprio a chiudere il cerchio, no, di questa avventura. Sì, è stato diciamo un terno all'otto, perché quando ci hanno invitato a Palm Beach abbiamo accettato proprio all'istante, perché come dicevi tu qualche giorno dopo ad Orlando c'è stato il convegno mondiale sulla SLA a cui io ho partecipato, Claudio ha partecipato, abbiamo presenziato, abbiamo portato davanti a tutto il mondo il nostro progetto, tanto che abbiamo ricevuto dei consensi veramente insperati. Gli inglesi avevano addirittura stilato una classifica delle nazioni più ottimiste per quanto riguardava la SLA e la malattia. Bene, l'Italia era risultata al penultimo posto, al nono posto su 10 nazioni. Dopo aver sentito del nostro progetto e di quello che sta facendo l'AISLA e il suo presidente Mario Melazzini, gli inglesi hanno detto: scusate, ci si siamo sbagliati, dobbiamo ristilare la classifica. E di questo noi siamo molto orgogliosi. E noi con voi, e noi con voi. Allora, Claudio Rinaldi, dicevamo un progetto in campo e l'impresa e la sfida vinta da Francesco Canali ha mobilitato forze, risorse. E facci un po' il punto della situazione e dacci anche un po' gli obiettivi che intendete raggiungere per il 2011. Ma guarda, per il futuro in realtà è ancora da decidere, non sappiamo adesso quali sfide ci proporrà Francesco, meglio ci imporrà, anche perché non ha avuto ancora il coraggio di dircelo, è top secret e non lo sappiamo noi stessi, noi quattro. Per il passato in effetti è stata una cosa travolgente il successo di questo progetto, che in un anno ha veramente mobilitato, ma non solo Parma, che pure è stata davvero mobilitata, e da tante sono state le iniziative organizzate in onore di Francesco, a tanti sono stati i fondi raccolti, perché a fianco a questa impresa sportiva, chiamiamola così, è stata lanciata da subito una raccolta di fondi che saranno tutti devoluti in beneficenza e che serviranno a acquistare ausili utili per i malati di SLA e a finanziare piccoli progetti di ricerca. Abbiamo raccolto più di 60.000 euro in 12 mesi e credo siano tantissimi, ma è soprattutto l'appoggio entusiastico e emozionante che tutta una città, e non solo la città, ci ha dato. Il tagliare il traguardo a Palm Beach è stato un momento davvero indimenticabile, perché ci rendevamo conto davvero di aver aiutato Francesco a coronare un suo grande sogno, ma anche di aver così fatto davvero una cosa importante. Credo che ne siamo tutti consapevoli e molto orgogliosi. Assolutamente sì. Francesco Canali, tu sai che te ed io condividiamo una grande passione, che è quella del basket. Ci eravamo parlati l'altra volta, io ti avevo detto, beh, secondo me tu cercherai di andarti a vedere anche una partita degli Orlando Magic dell'NBA. Ci sei riuscito? Guarda, appena partiti da Palm Beach dopo la maratona e arrivati ad Orlando, non abbiamo fatto tempo ad appoggiare le valigie in albergo, che già eravamo in macchina per andare al Palasport degli Orlando Magic. Tra l'altro siamo andati proprio in compagnia con Claudio e altri due dei miei spingitori, Gianluca Manghi, che è stato mio compagno di squadra per tanti anni, e Andrea Fanfone. Abbiamo visto il match contro Atlanta, e insomma anche questo un altro sogno che si è potuto realizzare, guardare un match NBA. Fantastico, fantastico. Sono i sogni che forse solo l'America riesce a realizzare, ma con il cuore grande, immenso di Francesco Canali, di Claudio Rinaldi. E Claudio, ricordaci anche i nomi degli altri spingitori. Andrea Fanfoni, Gianluca Manghi e Gianfranco Beltrami. E allora, medaglia d'oro per tutti e cinque, vi riaspettiamo alla prossima avventura qui a bordo campo, e intanto un grande in bocca al lupo per le prossime sfide di Francesco Canali e dei suoi amici maratoneti. Grazie, lupo, grazie a tutti. A bordo campo. E allora lo sentite dalla musica in sottofondo, musica armonica, celestiale. Oggi parliamo di pattinaggio su ghiaccio, pattinaggio artistico qui a bordo campo, perché abbiamo un ospite davvero particolare, milanese, classe 1986, tre volte campionessa italiana di pattinaggio su figura e con un sogno a cinque cerchi, un sogno olimpico ancora da realizzare. Benvenuta a bordo campo, Valentina Marchei. Ciao a tutti, grazie. Allora Valentina, finora che stagione è stata quella sul ghiaccio? C'è sempre in piedi una rivalità bollente, no? Quella con Carolina Kostner, che insieme a te è la punta del nostro movimento. Sì, beh, è stata una stagione in crescendo, diciamo così. Si parte, io sono un diesel, quindi ci metto un po' a caricarmi, no? E quindi l'obiettivo principale sono gli europei. Si sono appena conclusi i campionati italiani, dove ahimè ho perso il titolo, però l'ho perso molto elegantemente perché ho fatto due prove quasi perfette. Dico quasi perfette perché ci sono state leggere imprecisioni, per chi non capisce di pattinaggio non sono caduta, quindi è meglio. Questo già è una cosa positiva, almeno noi profani non ci siamo accorti di niente, perché poi è uno sport anche difficile per chi non ha l'occhio per capire le impercettibili imperfezioni che commettete a volte, no? Esatto. Beh, noi li proviamo miliardi di volte questi programmi, per cui sappiamo esattamente quando si arriva in gara con l'attenzione cosa puoi fare e cosa non puoi fare. La rivalità con Carolina c'è da sempre, c'è da anni, e diciamo che è sempre stata quella che ha spinto entrambe ad andare sempre più forti. Per forza, perché comunque avere qualcuno davanti, il fatto di dover mordere i polpacci a qualcuno ti spinge a dare di più. Anche perché dico, il vostro è uno sport che inevitabilmente ognuno di voi cura la sua prestazione sul ghiaccio, e quindi siete chiaramente molto concentrate su voi stesse. Però dal punto di vista psicologico, ecco, come ci si confronta? Attraverso gli sguardi, attraverso le dichiarazioni alla stampa, si mandano messaggi trasversali, come vi graffiate? In realtà noi non abbiamo mai voluto graffiarci, né tantomeno ci abbiamo provato. C'è chi intorno ha voluto provare a farlo e ci è riuscito. L'anno scorso è stato un anno un po' particolare perché era qualificazione olimpica e anno olimpico. Diciamo che 2 anni fa io sono stata infortunata, quindi non ho potuto difendere il mio posto ai mondiali. E ai mondiali dell'anno che precedono l'anno olimpico si decidono quante atlete e che nazioni vanno a partecipare alle Olimpiadi. Non potendo difendere il mio posto, Carolina aveva un po' tutto in mano, cosa positiva e cosa negativa, nel senso che aveva in mano le sorti di una nazione della nostra specialità, insomma. E purtroppo non è andata benissimo, quindi ci siamo ritrovati solo con un posto. Capisci che per me è stato difficile, già entravo da un anno in cui non avevo gareggiato, riprendere, sapere che dovevo prendermi il posto combattendo contro la 3 volte campionessa europea e 2 medaglie anche mondiali, una d'argento e una di bronzo, non è stato facilissimo. Anche perché poi invece questa situazione ti ha trovato anche nella posizione di dover fare il tifo per Carolina, no? Sì, per forza. No, vabbè, ma la nostra è veramente sempre stata un'amicizia molto sana. Purtroppo i giornalisti hanno creato un po' il loro lavoro, hanno creato questa pseudo rivalità che poi chi vuole legge tra le righe anche il negativo. In realtà le nostre dichiarazioni erano dichiarazioni di 2 ragazze che inseguivano il loro sogno, per cui non abbiamo mai voluto essere una contro l'altra, né tantomeno. Abbiamo continuato a fare il nostro lavoro e poi, insomma, vinca la migliore. È stato un po' gonfiato perché piaceva questa rivalità. Il nostro rapporto, purtroppo, d'amicizia è stato giustamente intaccato anche da queste dichiarazioni, perché non si sapeva mai se erano dichiarazioni effettivamente fatte per ferire l'una con l'altra, ma siamo riusciti a recuperare il rapporto adesso. Dopo la stagione olimpica lo stiamo ricostruendo, e devo dire che è come se non ci fossimo mai divise, insomma. Insomma, tante volte basta un caffè insieme o una cioccolata calda, visto il periodo e lo sport, e queste rivalità si riescono un po' a ricostruire. Ma tra l'altro, ecco, voi da amiche vi incontrate in gara, eccetera, eccetera, ma vi scambiate anche dei consigli, non dico solo tecnici, ma anche, che ne so, abbigliamento, pettinatura, insomma, come fanno tutte le ragazze? Non più di tanto. Noi quando siccome viviamo veramente solo e sempre di pattinaggio, cerchiamo di parlare d'altro, per cui i nostri discorsi, soprattutto durante i campionati italiani, sono stati: non vediamo l'ora che sia finita per andare in vacanza con i rispettivi fidanzati, per cui ci siamo un po' raccontate quello che avremmo fatto di qui a, insomma, agli europei, perché comunque adesso ci sono gli europei e sarebbe bellissimo essere sul podio, insomma, tutte e due. Magari poi, insomma, fatti gli europei, si può fare anche una vacanza in quattro, ecco. Sì, con calma, perché dopo gli europei ci sono i mondiali, per cui ora che finisca la stagione ce n'è ancora di acqua sotto i ponti, ne deve passare, per cui ci penseremo prima o poi. Beh, come avete capito, Valentina Marchei è una giramondo per professione e per passione, visto che il pattinaggio di figura su ghiaccio la costringe un po' a girare tutti i continenti. Non a caso anche la tua vita da sportiva è un po' una vita da globetrotter, sempre con la valigia in mano tra New York, Mosca, e adesso so che sei finita addirittura in Lettonia ad allenarti, insomma raccontaci un po' come ci sei arrivata nella cittadina di Daugavpils, se esatto, ho detto bene. Esatto, un nome impronunciabile, però esatto. No, è che 2 anni fa io ho cambiato allenatore dopo essermi allenata per 13 anni a Milano, e il mio allenatore in realtà è stato lui che mi ha scelto, perché io avevo espresso il desiderio di potermi allenare con lui, però lui allena solo un gruppo d'elite e quindi non prende tutti, insomma. E il fatto che avesse deciso che potesse lavorare con me ancora, che potesse far qualcosa della mia figura di pattinatrice, del mio ruolo, è stata una scelta importante. E quindi in quel momento lui è russo e come base aveva il New Jersey, Hackensack, a 20 minuti da New York. Per cui mi sono trasferita 2 anni e mezzo fa e dopo la debacle olimpica russa a Vancouver, i vertici del Comitato Olimpico Russo hanno richiamato i migliori allenatori in patria, per cui tra questi c'era anche il mio allenatore. E quindi dove lui va tu devi andare. Esatto, io l'ho sempre seguito perché credo nel suo lavoro, credo in lui e lui stesso crede in me, per cui credo sia un'ottima formula. Però il periodo in cui dovevamo trasferirci a Mosca era il periodo in cui c'era fuochi e fiamme a Mosca, per cui c'era quella temperatura ai 40 gradi e un sacco di incendi, per cui lui ha trovato una sistemazione provvisoria ad Daugavpils in Lettonia, che è esattamente a 12 ore di treno da Mosca. Insomma, dietro l'angolo praticamente rispetto a Mosca. Rispetto, guarda, ti dirò, forse New York è più vicino ad Daugavpils che a Milano, perché è molto più facile da raggiungere. Invece Daugavpils è a 3 ore da Riga, quindi bisogna andare in aeroporto 2 ore prima, prendere l'aereo, poi 3 ore di taxi, insomma è dura. Anche per i miei genitori venirmi a trovare un weekend non è facile, infatti tuttora ancora non l'hanno fatto. Sentite un po' che cosa non si fa per la passione per uno sport e soprattutto per un sogno olimpico. Ora le leggende tramandano che del tuo periodo newyorkese tramandano appunto di grandi scorribande in città con Danilo Gallinari. Siccome noi siamo anche qui a Radio 24 grandi appassionati di basket, raccontaci un po' come è andata effettivamente con il Gallo, insomma, so che è stato un po' il tuo cicerone a New York, eh? Ma sì, perché ci siamo conosciuti in un periodo in cui tutti e due ci siamo infortunati, perché proprio l'anno in cui ho cambiato allenatore si vede che il cambio di programma, il cambio d'allenamento e di modo di pattinare mi ha scombussolato un po', quindi mi sono fatta male, non potevo gareggiare e Danilo l'ho conosciuto così, ed era lo stesso periodo in cui lui ha avuto questo famoso problema alla schiena. E è stato lui a portarmi dal medico dei Knicks a curarmi, insomma, ad avere dei primi consigli, i primi ragguagli e niente. E quindi è nata questa amicizia, perché lui, essendo del posto da più tempo di me, mi ha fatto un po' conoscere la città. Insomma, non è che però ha fatto il galletto anche con te, no? No, la nostra è una sana amicizia e finisce lì, insomma. Bene, che il Gallo metta la testa a posto, per fortuna, controllalo tu. Senti, a parte scherzi, al di fuori della pista e della rivalità con Carolina e soprattutto anche con le grandi avversarie sul piano internazionale, hobby e passioni di Valentina Marchei? Hobby e passioni, guarda, ne ho proprio veramente poco tempo per avere hobby e passioni. Nella maggior parte del mio tempo libero lo passo praticamente di fronte al computer e a tenermi in contatto con mamma, papà, fidanzato e amici, perché Skype bisogna fare un monumento a chi l'ha inventato, perché veramente senza non riuscirei a tenere appunto i contatti con la mia famiglia, che sono sempre in giro e passo veramente poco tempo. Già è un caso che sia riuscita a stare 2 settimane e mezzo a Milano per prepararmi per i campionati italiani, perché sarei stata in giro in una stagione normale. Questa stagione ha voluto che il mio allenatore dovesse fare delle altre gare in Giappone, quindi dall'altra parte del mondo, con altri atleti a pochi giorni di distanza dal campionato, e quindi non era veramente il caso. E hobby e passioni, guarda, a me piace fare le cose normali perché non ho mai vissuto una vita normale, quindi andare al cinema piuttosto che andare a cena con gli amici, non ho niente di eccezionale, la normalità per me è la pura felicità. Beh, pura felicità di Valentina Marchei, che passa soprattutto su quelle sottilissime lamine dei pattini di ghiaccio, tant'è che la stiamo intercettando proprio in un momento di brevissima vacanza a Cortina, ma già pronta a rimettersi i pattini ai piedi, perché come mi dicevi Valentina c'è un allievo del tutto particolare a cui insegnare come pattinare sul ghiaccio, no? Sì, no, il mio fidanzato non ha mai pattinato, per cui ha espresso questo desiderio di pattinare insieme a me. No, non è tanto vero, infatti mi sta guardando malissimo, però lo costringo un po' io, infatti mi ha appena detto ok, adesso voglio io qualcosa in cambio, perché no. Però non abbiamo mai pattinato insieme, lui non ha mai pattinato, insomma un'occasione per andare proprio e divertirsi senza alcun tipo di obbligo o quant'altro, insomma. E allora grazie a Valentina Marchei per essere stata nostra ospite a bordo campo, vi lasciamo a questa pattinata in serenità e anche con un grande in bocca al lupo per il proseguio della stagione, e poi insomma incrociamo le dita ma non incrociamo i pattini, perché l'obiettivo è Sochi 2014, no? Esatto. Fin lì ci arrivo e ci provo fino in fondo, e d'altronde come ci ho provato fino adesso. Poi la passione è talmente grande che sicuramente muoverà montagne. Per a bordo campo di oggi è tutto, un ringraziamento a Filippo Aureggi in regia, vi ricordo che potete riascoltarci dal nostro sito internet www.radio24.it e scriverci all'indirizzo mail abbordocampo@radio24.it. L'appuntamento è come d'abitudine per domenica prossima alle 14.30 e in replica il sabato mattina alle ore 6.30. Un saluto e un augurio di buone feste da Dario Ricci.